9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Buongiorno cari ascoltatori, ma oggi più che mai, e vedremo se torniamo ai Doors soli subito dopo il Consiglio Europeo, oggi che è il giorno del Consiglio Europeo e che molti di voi invece fremeranno solo per questa ridicola palla che rotola, forse in fondo a una rete, vedremo se quella italiana o quella tedesca, e è ovvio che cominciamo invece anche oggi con l'inno tedesco. L'avvicinamento al Consiglio Europeo di oggi per il governo italiano è, diciamo, caratterizzato da una flessione di muscoli maggiore di quella che in molti attribuissero a Mario Monti. Mario Monti è evidentemente molto preoccupato di ciò che può avvenire all'Italia nel caso in cui il Consiglio Europeo sia solo un acquisto di tempo, come sono stati quelli i 24 precedenti negli ultimi 2 anni e mezzo, perché è ovvio che per il nostro debito pubblico e dopo l'intervento nelle banche spagnole saremo il paese che va oltre quota 500 per un paio di settimane, e a quel punto la nostra condizione sarebbe segnata, nel senso che diventeremo soggetti a un aiuto obbligatorio di cui conosciamo già le caratteristiche, che il fondo, il Redemption Fund, di cui abbiamo parlato ieri nella trasmissione dedicata alla Germania con la professoressa Esther Faia, sarebbe con l'accordo del fondo monetario esattamente cucito sulle nostre spalle, in quanto il problema dell'Italia è il suo alto debito pubblico, non i salvataggi bancari, non la riduzione del perimetro. Ecco perché Mario Monti, in un crescendo in questi ultimi 3 giorni, è arrivato a dire ieri che non deve essere considerata scontata da parte dei tedeschi il consenso alla Tobin Tax. Poco male per quello che mi riguarda non averla, è meglio, ma detto questo non può essere considerato scontato, ha detto il premier italiano, il consenso alla Tobin Tax, se non c'è il salva spread, che è questa misura per la quale l'ESM, che subentra l'FSF dal 1 di luglio, dovrebbe nella richiesta di Monti darsi da fare soprattutto per acquisti limitati quando ci sono fiammate di spread per quei paesi che siano da una parte sottoposti agli attacchi dei mercati, ma dall'altra siano anche più virtuosi. Ed è ovvio che si riguarda, si parla solo di noi, poiché noi siamo vicini già all'avanzo primario, e allora sul salva spread solo per l'Italia gli altri euromembri non ci sentono. E tenete conto che Mario Monti ha detto nei giorni precedenti che lui è disposto a non alzarsi dal tavolo fino alla notte fonda di domenica che riaprono i mercati. Insomma, siamo in una condizione nella quale la domanda era di capire se incontro ieri nel tardo pomeriggio e poi nella cena a Parigi tra Merkel e Hollande, la Francia avrebbe sostenuto o meno le posizioni italiane, e la notizia è che Hollande non le ha sostenute. Quindi in realtà arriviamo a questo Eurovertice soli perché l'Italia è esposta, in quanto Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo sono già finite nel tritacarne, e a questo punto noi siamo in prima fila. Io non voglio fare nessun tipo di vaticinio. L'Italia è in queste condizioni per problemi che ha creato la sua politica. I giornali di oggi sono pieni di annunci che dicono che dopo la riforma del mercato del lavoro, di cui parleremo oggi perché da ieri è legge, con mezzo centrodestra che non l'ha votato, e con la ministro Fornero protagonista di una impropria, secondo me, polemica, impropria da parte di chi gliel'ha portata ieri su quello che aveva detto il Wall Street Journal, ma sui giornali di oggi leggete che oltre alla riforma del mercato del lavoro, che bisognava portare come approvata appunto al Consiglio Europeo, si preannunciano poi nei giorni immediatamente successivi tagli per 30 miliardi di euro alla spesa pubblica, eccetera eccetera. Il punto è che non bisognava aspettare i consigli europei. L'Italia di suo dovrebbe sapere, classi dirigenti responsabili dovrebbero sapere, che un piano di abbattimento del debito pubblico attraverso dismissioni del patrimonio pubblico e non le tasche degli italiani va affiancato a un piano in cui 6, 7, 8 punti di PIL di spesa corrente, possono e devono essere ridotti in 3 anni in maniera non recessiva per diminuire la pressione fiscale, altrimenti il paese non rifiata. Se finiamo incatenati da uno schema di emergenza che ci vincolasse a punti e punti, magari 8, 9, 10 l'anno tra pagamento di interessi di titoli di Stato in scadenza e garanzie e interventi da dare per la diminuzione del debito pubblico attraverso tasse, non attraverso dismissioni, l'Italia credo che potrebbe prendersela solo con se stessa. Io sono dell'idea che bisogna provare comunque, perché non abbiamo bisogno di impiccarci a molti punti di pressione fiscale all'anno per l'abbattimento del debito pubblico, ma certo il ritardo con cui anche il governo Monti preannuncia ai giornali che tagli farà questi taglietti e senza avere per il momento dismesso un solo mattone pubblico, secondo me non è un buon segno. Ecco perché i mercati hanno il suo diritto, il loro diritto a non credere a noi, ecco perché i tedeschi hanno secondo me il loro diritto a non dire che ci vuole il salva spread solo per noi. Ma oggi parliamo appunto della riforma del mercato del lavoro. Io mi limito a dire che i giudizi sono rimasti aperti a forbice. Se guardiamo come i giornali di oggi la presentano una volta approvata, il Fatto Quotidiano preferisce in prima pagina prendersela con il ministro per la polemica di ieri impropria. Che cosa aveva detto il ministro Wall Street Journal? Che il lavoro uno se lo deve guadagnare. Ieri si è scatenato un putiferio, gli hanno detto che ignora la Costituzione perché il lavoro è un diritto. E allora il Fatto Quotidiano scrive in prima pagina: Elsa Fornero, un ministro che ignora la Costituzione. Se andiamo a vedere insomma i giornali di centrodestra, Libero dice: la boiata è legge, ora Monti la dia in testa a Frau Merkel. Non capisco niente. La boiata è legge si riferisce al giudizio del presidente di Confindustria Squinzi. La boiata, ricordate che ne abbiamo parlato più volte, le imprese si sono dichiarate deluse dall'impianto di questa legge, ma Libero comunque sostiene che questa legge è sbagliata e che è solo stata imposta, per così dire, dalla contingenza europea. Il giornale invece difende in prima pagina il ministro Fornero, perché dice: ma che gaffa, la Fornero ha ragione, il posto va conquistato, non preteso. Il Foglio, diretto dall'innamorato esplicito, dal pretendente alla mano di Elsa Fornero, Giuliano Ferrara, si conclude con un attacco come al solito durissimo nello stile di Giuliano a Confindustria, dicendo che gli imprenditori associati di Confindustria dicono che quel che fa la Fornero è una boiata. Infatti gli industriali che lavorano sul serio non stanno in Confindustria, giudizio di quelli naturalmente molto lievi e che danno l'idea di uno spirito totalmente ataraptico rispetto ai fatti. Repubblica dà parecchio spazio alla polemica sul lavoro non diritto, ma sulla riforma sorvola, per così dire. L'unico titolo che mette a pagina 10 è: la riforma diventa legge, sarà più facile licenziare. Ho dimenticato che Pietro Ichino, giuslavorista, spesso ricorrente in maniera quasi obbligata quando si tratta di riforma del lavoro, rilascia un'intervista al Foglio, che è un'intervista il cui titolo effettivamente è assolutamente corrispondente a quello che dice. Più pregi che difetti nella riforma Fornero, parla il professor Ichino, e il professor Ichino esprime il giudizio che alla fine, nella tanto dibattuta questione della più o meno flessibilità per l'uscita dal posto di lavoro, leggo le sue testuali parole: c'è un merito di questa riforma che basta da solo a compensare tutti i difetti, dice Piero Ichino. In materia di licenziamenti si passa da un regime in cui la regola generale è costituita dalla reintegrazione nel posto di lavoro, quella che la teoria generale indica come property rule, a una liability rule, ovvero alla sanzione indennitaria. E questo elimina un'anomalia tutta italiana, la reintegrazione automatica rispetto al resto d'Europa. Va in questa direzione, conclude, anche la drastica limitazione dell'entità dell'indennizzo nel caso di reintegra. Come vedete, quindi, la forbice di giudizi è ampia. Il Sole 24 Ore preferisce oggi dare un ampio dossier che trovate all'interno del giornale, un inserto di ben 12 pagine di guida su come funzionano tutti gli aspetti della riforma, però alla fine lascia, come un po' troppo spesso fa oramai sulle questioni di fondo, aperto e senza giudizio finale l'approvazione di questa legge. Vediamo allora insieme ai nostri ospiti che cosa ne pensano loro. E in questa prima parte della trasmissione sono con noi il professor Maurizio Del Conte, che insegna diritto privato e diritto del lavoro alla Bocconi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. noi. E Maurizio Castro, che è senatore del PDL, relatore al Senato, è stato della riforma del lavoro. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi tutti. Professore, ci dà un giudizio complessivo da parte sua, se dovesse equilibrare i diversi aspetti, al di là della flessibilità in uscita? A me quello che preoccupa di più è il giro di vita nella flessibilità in entrata. Ci si è rimesso mano nell'esame parlamentare, devo essere sincero, però insomma resta un bel giro di vite. Poi l'ASPI, lo ricordo tutto, il giro di vite sulle partite IVA, l'intervento sull'apprendistato rispetto a come era intervenuto il ministro Sacconi. Nel complesso, che giudizio secondo lei si può esprimere, professore? Ma con una battuta potrei dire che mi sembra una riforma del vorrei ma non posso. In realtà quello che ha tentato di fare la riforma è di smuovere un po' alcuni meccanismi che si erano irrigiditi nel corso degli anni, soprattutto grazie alla giurisprudenza che ha in realtà fatto un po' strame di alcune norme, in particolare quella sui licenziamenti economici, perché ricordiamo che la norma attuale sui licenziamenti economici lascia un largo spazio alle imprese di licenziare. Poi i giudici hanno creato attorno a questa norma l'obbligo di ripescaggio, cioè in sostanza il licenziamento economico come ultima ratio. Dicevo vorrei ma non posso, perché in realtà la riforma era partito con un certo, diciamo, una certa visione che si è persa strada facendo, e soprattutto quello che è successo è che nei vari passaggi di elaborazione del testo finale si è creato un testo di una complicazione incredibile, e un testo che mi sembra sia una sorta di scarico di responsabilità del legislatore verso i giudici, cioè i giudici hanno, soprattutto in materia di, devo dire, in materia di licenziamento e anche in parte in materia di flessibilità in entrata, hanno un enorme potere discrezionale. Questo spacchettamento dell'articolo 18 situazioni in cui il giudice può decidere la reintegrazione, ma può anche decidere invece il risarcimento economico, e in questo deve naturalmente dare una qualificazione diversa del licenziamento, rimette alla fase giudiziale la regola. Ora, se noi riteniamo che ciò di cui aveva bisogno l'Italia era un panorama chiaro, preciso, sicuro per le imprese, in modo che sapessero quali erano i termini entro i quali poter operare e quindi anche attirare gli investitori stranieri, che avessero un quadro preciso, insomma questo quadro mi sembra che ne esca quanto mai complicato. Il senatore Chino più volte ha richiamato la necessità di semplificare e di trovare un testo che fosse traducibile in inglese. Io non so quanto questo obiettivo sia realistico, ma il mio problema oggi è che nella lettura di questo testo è difficile la traduzione in italiano, cioè molto spesso è veramente difficile anche per un operatore nostrano capire come destreggiarsi fra le diverse norme. Quindi il mio giudizio nel complesso è di una riforma che non ha centrato gli obiettivi che si proponeva e che apre nei prossimi anni almeno una fase di estrema incertezza, perché tutti noi operatori aspetteremo di sapere cosa ne pensano i vari giudici nei vari distretti di corte d'appello italiana di questa o quella norma. Un panorama che per me è abbastanza preoccupante. Il giudizio di Italia Oggi dal gruppo Classe, Tranchant, il titolo dell'edizione di oggi del giornale: ora il lavoro costa di più, maggiori oneri contributivi sui contratti flessibili, indennità di licenziamento, ammortizzatori sociali più onerose e nuove tasse. E Sole 24 Ore, mi correggo, l'editoriale non era nel supplemento ma in prima pagina, prima che i colleghi protestino subito col direttore Tamburini per cacciarmi. Il titolo del giudizio del Sole: la riforma del lavoro credenziale a metà. E scrive Alberto Rioli: c'è una lacuna di fondo, quella iniziale, è che non si capisce se poi la parità di trattamento tra dipendenti privati e pubblici nella parte che riguarda il licenziamento, questione sulla quale il ministro Fornero e il ministro Patroni Griffi avevano avviato un confronto pubblico con opinioni radicalmente diverse, sia stata poi risolta oppure no. Lei l'ha capito, professor Del Conte? Non è stata risolta. E quindi i dipendenti pubblici restano... I dipendenti pubblici restano separati da questa riforma. Questo è una cosa un po' particolare, perché ricordiamo che negli ultimi 20 anni si era tentato un processo di avvicinamento fra la disciplina del lavoro pubblico e quella del lavoro privato, le fasi della privatizzazione degli anni 90, Bassanini e successive. Qui abbiamo per la prima volta un atto legislativo che un po' ritorna al passato, cioè fa presente che sì, questi principi dovranno ispirare un'armonizzazione anche del lavoro pubblico, però lo rimette a future regolamentazioni. E noi sappiamo purtroppo che nel nostro paese non c'è nulla di più definitivo del provvisorio, e quindi questa situazione rischia di protrarsi per ancora molto tempo. Senatore Castro, il giudizio non entusiastico, direi, dai partecipanti al voto finale dei parlamentari del centrodestra, a che cosa si deve? All'impianto della legge, alla modifica del calore del sostegno complessivo all'azione del governo? E in ogni caso, dal suo punto di vista, su quali punti si poteva e si doveva approfittare dell'occasione di una riforma dovuta, a cui bisognava arrivare per lavorare meglio con impostazioni diverse rispetto al testo? Ma guardi, in tutta sincerità, e mi perdonerà se la sincerità sconfina la ruvidezza, ho l'impressione che il voto così rattrappito del PDL alla Camera rispetto al DDL Fornero sia più dovuto al mood complessivo della situazione politica che non è un esercizio meditato di valutazione tecnica del testo, rispetto al quale noi vecchietti senatori siamo più avvezzi e dove sostanzialmente l'adesione del partito è stata molto più ampia e molto più convinta. Cosa c'è di buono e cosa c'è invece di cattivo? Di buono, mi perdoni dottore, ma ricordiamo il fatto che questa riforma ci viene dettata dall'Europa con la lettera Trichet Draghi del 5 agosto, alla quale risponde il governo Berlusconi il 26 ottobre, impegnandosi ad approvare in via definitiva la riforma in 8 mesi. In 8 mesi la riforma è stata approvata. Un segno di plausibilità e di credibilità verso le istituzioni europee in una materia divisiva come il lavoro, sinceramente di qualità. A proposito di materia divisiva, non dimentichiamo che in un paese dove neanche il pacchetto Treu è stato approvato all'unanimità, dove neanche lo Statuto dei lavoratori è stato approvato all'unanimità, riuscire a fare una riforma con questi numeri in una materia che ha generato, ad esempio, unico paese dell'Occidente, un terrorismo endemico ancora micidialmente o scenamente attivo, è un segno di grande responsabilità rispetto all'alluvionale condizione di crisi nella quale versiamo. Abbiamo violato il tabù dell'articolo 18, da una reintegra automatica per il 100% dei casi oggi scendiamo al 30% dei casi, già incorporando in questo 30% una magistratura singolarmente bizzarra e singolarmente poco leale dal punto di vista repubblicano nell'applicazione delle norme, come quella che genera i mostri come la procura di il Tribunale di Roma nel caso Fiat. Quindi complessivamente un alto voto dal punto di vista della responsabilità istituzionale. C'è anche qualcosina buona, lei prima citava l'apprendistato. Nell'apprendistato abbiamo aumentato del 50% la possibilità di ricorrervi dal punto di vista numerico rispetto allo stesso decreto legislativo di settembre. Abbiamo per la prima volta in Italia introdotto una prova lunga. Oggi senza nessuna causale puoi assumere un collaboratore a termine per 12 mesi e testarlo sino in fondo. Non è poi così malaccio. Lei citava le partite IVA. A me sembra molto ragionevole che noi abbiamo scudato le partite IVA il cui livello remunerativo corrisponde a quello di un operaio metalmeccanico in catena di montaggio alla prima assunzione, con 18.000 euro, sotto i 18.000 euro qualche sospetto c'è e può essere provato, sopra i 18.000 euro tutte le partite IVA, genuine o non genuine, sono scudate, mi sembra una norma molto semplice. L'errore Errore secondo me, quindi la parte poco felice della norma, è che in una congiuntura così lacerante dal punto di vista economico, avere un po' irrigidito istituti come il job on call, come il voucher, come il part time, che sono in fondo strumenti di avvicinamento ed ingresso al lavoro, sono sistemi di positivo candeggio di lavoro nero, di emersione di lavoro sommerso, mi è parsa un'operazione un po' imprudente. Capisco il tentativo di evitare che noi cediamo un modello competitivo che rifiuta la hydro strategy, che incorpora quote significative di legalità nella propria struttura dei costi e quindi sta sul mercato in modo abusivo e improprio, però ho l'impressione che la mossa sia stata quasi temeraria in questa condizione. Su questo abbiamo espresso riserve scandite, credo che possano essere offerti dei rimedi anche plausibili già nei prossimi mesi. Ma devo dire, senatore Castro, che io in effetti in molti punti non la penso molto come lei, ma non la penso molto come lei, pur apprezzando molto lo spirito con cui ha sottolineato che è vero che una convergenza su materie così incandescenti, divisive come queste in Italia non è proprio all'ordine del giorno che capita, anzi rarissimo, tantomeno poi nei 18 anni muscolari che abbiamo alle spalle. Detto questo, siccome poi quando si toccano temi come questi il professor Del Conte c'è un maestro nel dire che poi per 20 anni, 30 anni non si tocca più niente, io sono di mio convinto, primo, che la riforma del lavoro vero è quella che abbatte i contributi. Qua i contributi ovviamente si alzano, qui si arriva al 33% ovviamente anche per le partite IVA in gestione separata, qui si arriva comunque a un appesantimento di condizioni. La presunzione della soglia sulla partita IVA secondo me per esempio è troppo bassa, ma su questo non mi metto a fare, ma il giro sui contratti a progetto io lo considero anche quello un giro di vite che nasce da un presupposto ideologico che io ho visto nella versione iniziale della riforma, messa sul tavolo con questo giro di vite offerto all'inizio della trattativa del sindacato. Il sindacato l'ha portato a casa, abbiamo potuto vedere come in Parlamento si modificasse un pochino, ma insomma la verità è che nessun governo, neanche di sinistra, avrebbe dato al sindacato quel giro di vite iniziale sulle condizioni di ingresso nel mercato del lavoro con contratti diversi da quelli del tempo indeterminato. Quindi la mia opinione generale è che insomma quell'aliquota contributiva al 33% nel 2018 per i contratti a termine, quella è proprio è la faccia della morte per chi si trova in una terra molto difficile non avendo un contratto ovviamente di lavoro a tempo indeterminato su cui poter contare, e con lo Stato che gli dice e tu paghi come chi ha tutele e diritti. Io la considero proprio un errore di fondo. Ricordo a tutti, e andiamo in pubblicità, che la Germania, quando quei pacchetti Arts ha intervenuto su questa materia, la lotta alla precarietà l'ha fatta diminuendo la propria pretesa contributiva e la propria pretesa sul reddito dei lavoratori giovani a tempo da far emergere. Da noi è l'esatto contrario, ed è la richiesta da sempre del sindacato, che si batte contro il lavoro autonomo dicendo alziamogli i contributi anche in presenza dei minori diritti. Per me questo è un errore proprio ideologico, di fondo, non ci posso fare niente, ma la penso così. Non credo che dipenda dal fatto di essere a mia propria volta un autonomo e un piccolissimo imprenditore, dipende dal fatto che l'equilibrio delle tutele non può essere visto solo a senso unico nelle richieste di chi vuole il mondo solo per coloro che ha il tempo indeterminato. Credere di fare un piacere, cioè accrescere le possibilità di un lavoro a tempo indeterminato, appesantendo le condizioni normative e contributive per chi non ce l'ha, è una classica maniera di spararsi in mezzo alle gambe, perché si ottiene meno lavoro per coloro che sono meno tutelati senza per questo accrescere affatto il numero di coloro che sono più tutelati. Può essere che sbagli io, ma io la penso così. E con noi Federico Bellono è il segretario generale della FIOM di Torino. Buongiorno e grazie a Bellono. Buongiorno. Allora, per gli ascoltatori che lo sanno ovviamente quali sono le vere ragioni che avete espresso nel tempo di critica a questa riforma del lavoro, però ricordiamole in sintesi, dal vostro punto di vista quali sono i maggiori errori di fondo, le inadempienze e le delusioni di questo testo? Ma intanto c'è un ragionamento generale per cui si è partiti, diciamo, da un discorso sulle regole del lavoro in una situazione in cui mi pare che la priorità vera sia quella di una mancanza di lavoro, di una mancanza di una politica di investimenti per la crescita, di cui peraltro si parla molto, ma su cui ad oggi di concreto c'è molto poco. Per quanto riguarda il testo, guardi, le cose sono sostanzialmente tre dal nostro punto di vista. Si era partiti con l'idea di dare priorità a una iniziativa di contrasto alla precarietà. Si era parlato molto di giovani nell'argomentare all'inizio questa iniziativa del governo. Mi pare che alla fine ci sono una serie di piccoli aggiustamenti, diciamo così, di buon senso su una serie di questioni, ma non c'è davvero un contrasto alla precarietà che ad esempio riduca quella giungla di rapporti di lavoro che nei fatti sono la vera emergenza per quanto riguarda l'occupazione, non solo giovanile. Dall'altra, si era parlato moltissimo di un'estensione, diciamo un po' a tutti i lavoratori, ecco, delle tutele sociali in caso di crisi. Mi pare che invece questo non ci sia, cioè l'allargamento sia in realtà molto molto ridotto. Quello che invece peserà moltissimo, soprattutto in questi anni di crisi, quelli attuali ma anche i futuri, è una drastica riduzione di alcuni ammortizzatori, di alcune tipologie di cassa, in particolare il passaggio dalla mobilità a questa sorta di assicurazione, anche il nome dà l'idea dell'impostazione che si è voluto dare, cioè l'ASPI, per cui lavoratori che oggi hanno una copertura, dopo aver perso il posto di lavoro, hanno una copertura economica per 3 anni, si vedranno ridotta questa copertura in alcuni casi a un unico anno. E poi infine c'è l'argomento, diciamo, di quella che viene chiamata flessibilità in uscita, che io più banalmente definirei norme che rendono più facili i licenziamenti, dove si era partiti da un equivoco che non è mai stato chiarito fino in fondo, per cui in verità parliamo di quello che succede in presenza di licenziamenti che sono stati stabiliti come legittimi, cioè non si interviene sul fatto se si può o meno licenziare, cosa che era possibile prima esattamente come adesso, si interviene però su un tema che è quello di che cosa succede a un lavoratore nel momento in cui sia stato illegittimamente licenziato. Ecco, questi sono i tre argomenti, le tre questioni di fondo su cui noi abbiamo espresso una netta contrarietà all'iniziativa del governo Monti. Bellomo, le posso chiedere con altrettanta franchezza un testo di cui avete detto queste tre ragioni di fondo, tante altre poi ne avete aggiunto nel tempo, ma queste tre ragioni di fondo. Dall'altra, il presidente di Confindustria ha detto è una boiata sta riforma, non ci piace, poi la devono approvare per il calendario europeo. Quando il contraltare, cioè la Confindustria, dice che è una boiata, sicuri che chi ascolta e non è, diciamo così, e vuole farsi un'idea, come fa a non pensare se alla FIOM-CGIL non piace per questo, a Confindustria non piace per tutt'altra ragione, ma non è che poi si rischia che la gente pensi ognuno recita la sua parte, deve essere una buona riforma? Ma guardi, questo rischio c'è, figuriamoci. Il punto vero è che secondo me il governo ha fatto proprio un errore, adesso io lo definirei strategico, ma forse una parola troppo impegnativa in una politica che già fatica ad andare avanti giorno per giorno, però ha fatto proprio un errore a voler fare di questo tema, insieme alla riforma delle pensioni approvata poco prima, quello che ad oggi è il tema, diciamo la carta d'identità con cui questo governo si presenta all'opinione pubblica italiana, ma soprattutto europea, perché era evidente che su questo tema sarebbero venute fuori tutte le questioni a cui ho fatto riferimento io, ma che sono oggetto di dibattito quotidianamente. Cioè, io credo che si sarebbe dovuto partire in tutt'altro modo. Tra l'altro, è sempre bene considerare le cose nel suo insieme, cioè il combinato disposto delle norme sul lavoro di cui stiamo parlando con gli effetti della riforma delle pensioni non dà vita solo a situazioni davvero paradossali come quella dei cosiddetti esodati, ma secondo me apre un problema che riguarda anche l'assetto sociale del nostro paese nei prossimi anni, dove in presenza di una crisi che non è passeggera e momentanea, genererà secondo me problematiche di carattere sociale molto ma molto rilevanti. Secondo me diciamo, il governo avrebbe dovuto scegliere tutt'altro, e soprattutto non si può pensare di riformare lo Stato sociale come con una qualche ambizione il governo, la stessa ministra Fornero aveva detto, pensando semplicemente di risparmiare delle risorse. Ecco, io penso che purtroppo questa sia una finzione. In realtà, soprattutto sulle pensioni, si è voluto far cassa in una situazione di profonda difficoltà dal punto di vista finanziario, e io ho l'impressione che i diretti interessati, ma una quota crescente di opinione pubblica, abbia percepito nell'insieme di queste iniziative un elemento di ingiustizia e di sproporzione dal punto di vista di coloro che poi alla fine pagano in maniera più immediata i costi della crisi che stiamo attraversando, che nessuno mette in discussione. No, no, certo. Senta, la Fiat ha reagito, ha rotto il silenzio dopo la sentenza sulla riassunzione dei 145 di Pomigliano? Ma guardi, a me non risulta. No, infatti, ma come l'interpreta questo fatto, questo silenzio così singolare rispetto alla reattività immediata che di solito l'azienda riservava a sentenze a sé sfavorevoli? Ma guardi, ovviamente ci possono essere interpretazioni, cioè ci possono essere interpretazioni esattamente opposte, nel senso che, come qualcuno ha provato a dire, magari Fiat sta un po' pensando o ripensando, diciamo, almeno a una parte, ecco, della strategia che ha seguito nel corso di questi 2 anni, insomma, da Pomigliano in avanti, dal punto di vista delle relazioni sindacali, oppure semplicemente stanno ancora valutando come reagire. Tenga conto che un problema che noi abbiamo deciso di sollevare in queste ore è anche quello di, insomma, la Fiat sta in silenzio, però c'è una sentenza che va applicata. Ecco, quindi ho l'impressione che in questo momento prevalgano iniziative di pura polemica e, devo dire, anche un po' strampalate. No, però per il momento sono venute più critiche dalle altre associazioni sindacali che dicono: se assumono quelle della Fiomma noi siamo discriminati, che la Fiat è stata in religioso silenzio fino a questo momento. Beh, guardi, il combinato disposto di questi due atteggiamenti lo trovo significativo, ecco. Cioè, nel senso che, come peraltro hanno detto anche alcuni ministri, si tratta di una sentenza importante che in tutti i casi va letta e valutata prima di essere commentata, insomma, una scelta di prudenza. Il fatto che alcune organizzazioni sindacali provino a fare un rovesciamento di realtà, per cui improvvisamente chi è stato in maniera evidente, discriminato, diventa l'agente di una potenziale discriminazione nei confronti di altri, lo trovo francamente abbastanza ridicolo. Va bene, prendiamo l'impegno di vedere quando ci sarà la reazione, di ridarvi voce, insieme anche alle altre organizzazioni sindacali, perché qualcuno mi ha mandato poi una cosa dicendo: beh, allora andiamo anche noi, algoritmi alla mano, a provare in tribunale. Guardi, bisogna... il problema, però, se posso permettermi, sì, certo. Il problema vero, che in qualche modo si lega al ragionamento che invece abbiamo fatto prima, e che noi ormai da settimane assistiamo a segnali molto evidenti di difficoltà da parte di Fiat, dal discorso degli aiuti europei come per la siderurgia, al discorso dell'affitto degli stabilimenti, al discorso del rinvio degli investimenti, che meriterebbe un'attenzione che in questo momento non c'è, in particolare da parte del governo. No, ma sono d'accordo su questo, un ritardo clamoroso e una mancanza che io francamente non mi sarei aspettato. Cioè, su questo tema questo governo non si sta muovendo in modo molto diverso dal governo che l'ha preceduto. Bellono, devo dire che io stesso, più occasioni pubbliche, anche capitato anche da Gardena lunedì, c'era Eraudo della Fiom, ho detto che trovo singolare poi magari passare il tempo a occuparci di, come è giusto, delle polemiche sulle sentenze e così via. Qui c'è un enorme problema relativo al fatto che potremo tra pochissimo scoprire che la parte residua, restante, da difendere della produzione automobilistica italiana, e soprattutto tutto l'automotive che gli resta collegato, ricordo a tutti, sono 42 miliardi di euro la sola filiera dell'automotive senza la Fiat, e rischiamo tra pochissimo di svegliarci un giorno apprendendo che per tutta questa roba, o il più di tutta questa roba, poi non c'è più. Anche basta, che guardi, poi non ci sorprendiamo. Anche perché, guardi, pensare che possa rimanere un settore importante di automotive senza un costruttore infatti significativo è molto molto problematico. Ed eccoci sempre con il nostro inno, per alcuni sarà per la partita, ma datemi retta che è Consiglio Europeo, con la posizione italiana questa volta rischia di rimanere abbastanza solitaria e bisogna essere consapevoli che quello che ci aspetta dopo è di finire nel tritacarne e non prendendosela con gli altri, almeno per chi è depositario del mio punto di vista, la colpa è nostra. Abbiamo avuto tutto il tempo, dopo aver fatto tutti questi guai di spesa corrente e debito pubblico, per rimediare. E il dire non si può fare perché la spesa non si può toccare, il dire non si può fare perché gli attivi patrimoniali non si cedono quando si massacra il reddito e il patrimonio delle famiglie e delle imprese italiane, è la classica posizione inaccettabile. Ma concludiamo occupandoci sì di sport, ma di un caso sportivo per il quale noi ci vogliamo battere. È il caso di Pietro Sibello, atleta olimpico, stiamo parlando di vela, siamo nella classe 49ers, è una classe olimpica dal 2000, e questo è uno dei velisti italiani più provetti che alle ultime Olimpiadi in Cina è stato, per così dire, un po', diciamo, in maniera un po' disinvolta, privato di una medaglia che secondo me meritava, la medaglia di bronzo, invece poi posizione quarta. Pietro Sibello però attualmente non è in condizioni, essendosi allenato ed essendo in ottime condizioni, di andare alle Olimpiadi perché gli negano l'abilitazione medica. Gliela negano, a un angioma, a un problema a cui si è fatto stupore a tutti gli esami del caso, eccetera, eccetera. È disposto a sottoscrivere lui l'assunzione di responsabilità per potersi battere per una medaglia. Per me, che ho avuto problemi di salute e mi sono battuto con coraggio e con responsabilità di fronte al male, considero quello di Pietro Sibello l'esempio da seguire di come si fa a non arrendersi, ad affrontare le cure e comunque a avere una vita normale, nel suo caso non normale, perché stiamo parlando di un atleta di massimo livello mondiale, e la cosa che io trovo ridicola è che non gli diano l'abilitazione per andare alle Olimpiadi. E con noi qua Pietro Sibello, mi perdono se sarò stato troppo sintetico e poco rispettoso nella mia presentazione, gli chiedo solo che cosa possono fare i nostri ascoltatori per dargli una mano e tentare di vincere questo incomprensibile muro e poter invece gareggiare alle Olimpiadi in Gran Bretagna. Buongiorno e grazie a Pietro Sibello. Buongiorno Oscar, grazie dello spazio che mi concedi e della bella presentazione, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente sto vivendo un periodo un po' difficile per visto questo problema che sto avendo in vista, ormai siamo alle porte delle Olimpiadi di Londra. Devo dire che ho riscontrato una grande sensibilizzazione, un grande sostegno da parte di tutti gli appassionati di vela e non, che veramente mi stanno aiutando tantissimo in questi giorni. E, tra l'altro devo dire che è nato da pochissimo un gruppo su Facebook che si chiama Vogliamo Pietro Sibello a Londra 2012 e in pochissimi giorni ha già raggiunto quota 1000 persone. E allora io ripeto a tutti, Vogliamo Pietro Sibello alle Olimpiadi, trovate su Facebook la cosa, sostenete e firmate voi che siete in ascolto. Prego Pietro, ti interrompo. Io appunto quello che stiamo cercando di fare è lottare su due fronti. Uno è appunto quello mediatico per aumentare il peso della mia posizione, ad aumentare il sostegno nei miei confronti e, come dire, dare pressione alle persone che hanno il potere di decidere sulla mia posizione, e parallelamente ovviamente anche valutare dal punto di vista legale quali siano le strade migliori da intraprendere. Ma è un problema al Comitato Nazionale? Il problema sì, è esclusivamente del Comitato Nazionale Italiano, quindi il CONI, che dando peso al parere della propria commissione medica mi nega l'idoneità da atleta probabile olimpico, condizione necessaria per partecipare alle Olimpiadi. Pietro, io continuerò a ripetere anche in questi giorni l'invito a sostenerti nella campagna su Facebook. Speriamo di poterti prestissimo richiamare una volta che ti hai riconosciuto questo diritto. È per Pietro, è per lui, è per il suo valore, ma è per tutti coloro che vogliono una vita normale, migliore, eccezionale degli altri, proprio perché dichiarano di combattere e assumersi le loro proprie responsabilità verso il male. Trovo questo un esempio per tutti e una maniera per stare vicino non solo a chi soffre, ma per dirgli che la vita si conquista ogni giorno attraverso il valore che assume se la vivi al massimo della tua scienza e coscienza e capacità, fino a quello di una medaglia olimpica, perché no? Grazie a Pietro, ne riparleremo ancora. Intanto appuntamento a domani, e stasera vinca il più forte! Non vi dico chi secondo me è più forte a pallone, ma poi ne parleremo domani mattina. Yeah.